quando lo fuoco goce ma si fuie terrassa sta e non te copre aprie se non te struie solo a guardar iammo, iammo ancoppa iamma ya iammo, iammo ancoppa iamma ya cure, cure, cure, cura cure, cure, cure, cura iamma, iamma ya cure, cure, cure, cura e chiuta poi è tornata e poi è venuta sta sempre a ca la capa vuota vuota attorno attorno attorno a te lo cuore canta sempre dello tuo reno scusa mai me iamma, iamma, coppa iamma, iamma, iamma, coppa iamma, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, coppa iamma, curi, curi, curi, curi, Tierra, esta tierra, música. Bueno, el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you.

che ancor le voglio tanto bene. Sotto le stelle chiare, ora se ritornerà la luna, vento, vento, portami via con te. Stelle chiare, forse ritornerà la luna, vento, vento, portami via con te. Sussurra il vento come quella sera. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh. Sarai più sola quanto ti voglio.

non ti scordare di me. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Paris Angelicus, fit palis hominum.

acida è l'onda, prospero il vento, sul mare luccica l'astro d'argento, l'acida è l'onda, prospero il vento, venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Oh! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Perché sei tu che mai rubi.